11.07, prosegue la mattinata informativa di Radio Blackout con qualche minuto di ritardo. Torniamo in onda con Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo di Torino. Innanzitutto un buongiorno a voi che siete sintonizzati da Francesca ed Anna. Come sempre vi presentiamo brevemente gli argomenti di cui ci occuperemo quest'oggi. Andremo a fare un breve commento su un rapporto uscito recentemente da parte dell'ANVUR, questa agenzia che si occupa di valutare appunto gli atenei italiani, su cui spesso, insomma, di cui spesso abbiamo parlato anche da queste frequenze, per appunto restituire un po' quello che è appunto la fotografia degli atenei italiani all'oggi. Ci sposteremo poi a Parigi. Ieri in Francia una nuova giornata di mobilitazione contro la Loi Travail. Andremo a sentire un corrispondente che ci racconterà qual è stata la giornata di ieri e le prossime mobilitazioni. E per quanto riguarda sempre la cronaca del nazionale, faremo un collegamento da Roma per commentare l'ultima operazione avvenuta ieri mattina a danno di 10 compagni che sono stati colpiti da obblighi di firma per aver contestato un banchetto di Noi con Salvini durante la campagna elettorale. Si avvicina infine luglio e ricomincia l'estate di lotta in Val di Susa. Andremo quindi a presentarvi quello che sarà il Festival dell'Alta Felicità 22, 23 e 24 luglio in Val di Susa. Dope I've ever smoked, right? Not better than the Blue Oyster, it can't be. I can't handle better than this. Is like if that Blue Oyster shit met that Afghan Kush I had and they had a baby, and then meanwhile that crazy Northern Light stuff I had and the super red espresso snowflake met and had a baby, and by some miracle those two babies met and fucked, this would be the shit that they burnt. Wow. Yes. This is the product of baby pudding. Smell it. Okay. Smell it. Enjoy. Oh. What do you want to bathe in it? Living here. Yes, you want to be it? Oh my god, I'm gonna shove it up my nose and have that smell all day. That's amazing. Shove it anywhere you like. Beautiful. What's it called? Pineapple Express. Finally the herbs come around. The I quit with me, I look for me, get it by the phone, yeah. When Calibut come around, a pure ganja man tune, just a lick from the sound, yeah. Finally the herbs come around. The I quit with me, I look for me, stock it by the phone, yeah. When Babylon come around, ask them with them I go search for. Che prima ce lo dicevano. Tu poi ci pensi e non è facile parlarne, dimenticare i giorni in cui è andata lasciandoti in panne. Gli abbracci, la tua famiglia ti frantuma ma non lo capisci. Ti rendi conto dopo dei capricci che stanno rovinando ciò che credevi indimenticabile, lasciandoti in cambio ricordi e lacrime. Tuo padre parla scrivendo colori su di un foglio, tua madre parla solo piangendo e tu esci di casa e vuoi solo dimenticare. Delle volte che fa male, delle volte che devi tornare. Hai solo voglia di te stessa, sapore di una lacrima, spezzare una lancia per la tua causa. Responsabilità che cambiano le carte in tavola, più forte stringi il pugno più si svalvola. La gente vuole risposte, le trova solo quando finisce trascinata sull'asfalto con 10 punti in 10 metri e poi cos'altro. Distrugge le regole che sino a lì uno si è fatto. Qui dimenticare è più difficile che apprendere di avere un peso e non sapere come reggere, di non sapere cosa prendere, capire cosa perdere, guardarsi allo specchio per non disperdere. Questi ricordi fanno male, vorrei dimenticare di tutte le volte da ricordare. Questi pensieri da spezzare, adesso basta. Chiodi il martello e li rinchiudo in una cassa. Ma se questa vita è la stessa, perché mi stressa vederla in viso alla gente che la disprezza? Non serve dimenticare ciò che resta, è tutto in te, non puoi fuggire da te stessa. Che cos'è in realtà la vita? E il mio sogno ricorrente sembra esserlo ogni volta che ho bisogno di tornarti in mente. In città con le mie fughe, trucco tra queste rughe, l'estate delle giornate più lunghe. Ma non averti adesso e non vivere realmente, io sono un segno zodiacale senza l'ascendente. Qualora in questo delirio trovassimo il movente, mi incarico di custodirlo gelosamente. Cerco il silenzio e lo metto da mangiare le loro occhi e sboccarlo nel gabinetto. I sogni fuori dal cassetto con fucile sotto al letto. Amore, non sono stato un marito perfetto. Lentamente sono sagome di piombo, lo sento il vento in faccia sul punto del non ritorno. Noi qui e queste foto cosa dicono? Che il mondo richiede mille riscatti al secondo. Voglio sentire le tue mani su chi dubita, perché la nostra storia è un libro triste che nessuno pubblica. O forse non esiste che rimanga l'ultima, o forse non esiste che muoia per l'ultima. Questi ricordi fanno male, vorrei dimenticare di tutte le volte da ricordare. Questi pensieri da spezzare, adesso basta. Chiodi il martello e li rinchiudo in una cassa. Ma se questa vita è la stessa, perché mi stressa vederla in viso alla gente che la disprezza? Non serve dimenticare ciò che resta, è tutto in te, non puoi fuggire da te stessa. Il momento del confronto arriva per tutti, e non è un appuntamento che puoi permetterti di scordare. Che Buddy, alias Stasters, Frank Siciliano. E tu, non scordare che sei un guerriero, non scordarlo mai, per Riccardo Torre. Allora, 11:17, bentornati all'ascolto di Parole Ribelli. Come vi annunciavamo poco fa, iniziamo la puntata di quest'oggi con un commento su il rapporto sullo stato del sistema universitario della ricerca del 2016 che l'ANVUR ha pubblicato recentemente. Si tratta appunto di una pubblicazione che è uscita qualche settimana fa già, però insomma sicuramente attuale, perché fotografa appunto lo stato dell'arte dei nostri atenei per questo ultimo anno. Insomma, dell'ANVUR abbiamo parlato molto da queste frequenze. Si tratta appunto dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, che si occupa di sostanzialmente schedare gli atenei italiani raccogliendo dati di varia natura. e contro cui anche quest'anno molti ricercatori si sono schierati con il boicottaggio appunto dell'inserimento dei dati che poi dovevano essere spediti all'ANVUR, sia per questioni insomma contrattuali, chiedendo appunto uno sblocco degli stipendi, sia appunto anche come critica a questo sistema della valutazione che di fatto poi si occupa di gerarchizzare gli atenei italiani sulla base della produttività e di certo non di quella che poi dovrebbe essere insomma un parametro di valutazione della vera qualità dei nostri atenei, che insomma sappiamo invece essere sempre più lontani da un'idea di un'università che ci piacerebbe. Comunque appunto l'ANVUR annualmente pubblica questo rapporto che viene presentato insomma al Ministero dell'Istruzione e poi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e il Parlamento. Appunto lo andremo a commentare con tutte le criticità del caso che abbiamo detto rispetto a quest'ente, però è indubbio che comunque pur da un punto di vista molto lontano dal nostro restituisce appunto una fotografia dell'università attuale. E vi facciamo quindi sentire un breve commento che era stato realizzato dai compagni e dalle compagne di Sapienza Clandestina, che appunto hanno letto un po' questo rapporto che comunque potete trovare online e l'hanno un po' insomma commentato in diretta, andandone ad analizzare i vari punti, quindi ve lo facciamo ascoltare e poi torniamo in diretta. Università, torniamo a parlare di università perché è uscito da qualche giorno il rapporto biennale di valutazione dell'ANVUR. L'ANVUR, per chi non lo sapesse, è l'Associazione Nazionale Valutazione Università e Ricerca, un ente creato apposta per valutare l'università, per valutare la docenza, per valutare la ricerca, per valutare i laureati, per valutare tutto quello che concerne il mondo dell'università e stanziare, stilare dei dati, delle statistiche, stilare delle valutazioni che possano dire funziona, non funziona, perché non funziona, e soprattutto se non funzionate non vi do i soldi, se funzionate conviene che lo Stato investa ancora più su di voi rispetto a altre situazioni, ad altre realtà, ovviamente non andare a investire ulteriori fondi rispetto a quelli stanziati dal Ministero Standard per l'Università, che quest'anno, come ricordiamo, abbiamo ricordato tante volte tramite il Piano Nazionale della Ricerca, non sono fondi in più rispetto a quanti erano stati stanziati nel passato, nonostante gli annunci elettorali del governo. Sono stati stanziati addirittura per il prossimo triennio meno fondi di quelli che erano stati stanziati durante il governo Berlusconi dall'allora ministro Gelmini, il ministro forse fra i più contestati per quanto riguarda i tagli all'università. Nonostante ciò non continuano gli investimenti, cambia soltanto i canali di investimento dentro la ricerca, ed è quello di cui parla tra l'altro anche l'ANVUR quando parla dei fondi. Allora, praticamente che cosa succede? Che ogni due anni un'equipe di cervelloni a capo da poco tempo di un nuovo presidente, che è stato cambiato appunto il presidente di questa associazione, un'equipe di cervelloni sciorina un elenco di dati e di statistiche sul mondo dell'università dall'alto delle loro poltrone, senza andare poi effettivamente a considerare quali sono i effettivi problemi dell'università, ma semplicemente andando a stilare delle classifiche. Problemi che essi stessi si rendono conto che sono presenti all'interno dell'università. Infatti in apertura proprio l'ANVUR dice effettivamente l'università italiana vive un po' insomma un periodo di crisi, i soldi sono pochi, non si investe molto, è vero, queste nuove le università statali stanno avendo un periodo di difficoltà. La difficoltà sicuramente è dovuta non tanto dai pochi investimenti, ma soprattutto è un sistema sottofinanziato, però soprattutto dalla docenza. I docenti sono ridotti all'osso, i docenti sono sempre gli stessi, non c'è ricambio generazionale, i docenti hanno un'età media che aumenta sempre di più, è difficile far scomodare i baroni dalle proprie poltrone, e non si riesce ad avere una continuità nella carriera accademica per tutte quelle persone che intanto continuano a svolgere il loro processo di istruzione e di crescita formativa volto poi a fare ricercatore e docenza all'interno dell'università. Quindi questo è un po' il problema che riscontra effettivamente l'ANVUR nella sua analisi, oltre al fatto che effettivamente i soldi sono pochi. Ma l'ANVUR in fondo non è altro che un ente che si attesta su quello che è il dogma paradigmatico dell'università ad oggi in tutto quanto il mondo, ovvero quello di un'università che deve essere esclusivamente produttiva, un'università che deve portare come unico obiettivo quello alla formazione personale, ricercatori, docenti che portino soltanto alla pubblicazione di dati, alla pubblicazione di risultati scientifici, non sia nel campo delle scienze umane sia nel campo delle scienze le più classiche. Quindi si inserisce perfettamente in questo ragionamento, in questo che è ad oggi il leitmotiv dell'università, ovvero l'università non deve essere più un posto dove investire sulla crescita della popolazione, sulla crescita culturale, sulla crescita sociale, sulla crescita della libertà di studio e di formazione degli studenti e delle studentesse, ma deve essere un luogo dove si riesce a ottenere quella produzione più alta rispetto a determinati fattori che invece ambienti che invece non possono, non hanno una base su fondamento universitario. Quindi è questo il sistema che noi abbiamo già criticato tante volte. Quindi è un sistema in cui si basa esclusivamente sulla pubblicazione, non può però prescindere dal fatto di dove allora vai a pubblicare, su chi sei e che cosa pubblichi, e quindi chiaramente a quel punto entrano, come abbiamo già sentito due settimane fa durante il Festival Mind the Gap, ma anche precedentemente durante il Cap Fest, dove sono stati messi all'interno del nostra università questi temi al centro del tavolo della discussione per cercare di capire un attimo questo, che cosa significa questo sistema universitario. E significa appunto questo, significa che tu, docente universitario, ricercatore, assegnista, dottorando, devi improntare la tua carriera esclusivamente sul produrre su carta, produrre degli articoli, produrre dei lavori che possono essere vendibili, spendibili sul mercato internazionale, cercando di puntare a quei giornali, a quelle riviste, chiaramente sappiamo che sono sempre in mano a lobby di potere molto più grandi di quanto ci possiamo immaginare. Basta anche pensare soltanto che una pubblicazione su Nature ti garantisce a vita un buon posto nella considerazione sociale del tuo lavoro di ricercatore o di docente universitario, e quindi chiaramente abbiamo anche su lobby che sono al di fuori della nostra piccola cerchia ristretta che possiamo immaginare, università, città, paese, ma addirittura sono lobby di potere internazionale. E quindi questo è il tuo unico obiettivo, quello di andare a pubblicare tanto, pubblicare quindi cose che interessano, cose che servono a essere spese e vendibili sul mercato. E qui l'ANVUR proprio dice esattamente questo, dice che l'università non è in crisi, nonostante siano semplicemente sempre più difficile fare ricerca dentro i nostri laboratori, oppure anche semplicemente ricerca sociale, la possibilità di lavorare in qualsiasi tipologia e forma di ambito accademico. È sempre più difficile fare ricerca perché i fondi sono sempre di meno, sono sempre stati più ridotti nel corso degli anni, ma l'università, la ricerca tiene perché il numero di pubblicazioni su giornali importanti per singoli docenti, singoli ricercatori italiani è alto, e questo dovrebbe far ben sperare insomma la nostra università, e questo troviamo qualcosa di assolutamente assurdo, quindi il risultato personale di un singolo che riesce a andare a vendere il proprio lavoro sul giornale di punta dovrebbe essere un risultato nazionale per tutti quanti noi che invece fatichiamo, a fatica riusciamo ad andare avanti nella nostra vita universitaria che garantisce sempre meno possibilità di in un futuro, andando ad esultare per il lavoro di uno o di pochi che possono avere la possibilità, perché finanziati non soltanto dall'università di lavoro, ma anche da enti privati, nel loro successo per aver venduto al meglio il proprio lavoro. E già quindi questo è qualcosa di aberrante, nel senso viene riconosciuto una mancanza di fondi, un'impossibilità a lavorare, basti pensare che abbiamo già detto tante volte, assegnisti e dottorandi ad esempio non vedono riconosciuti i contributi nonostante loro lavorino dentro l'università, o basti pensare che la didattica ormai, visto che appunto come si diceva blocco del turnover eccetera eccetera, è sempre più affidata a persone, lavoratori del mondo università che non hanno compiti e mansioni contrattuali riguardanti la didattica. Però noi dovremmo ben sperare, quindi non dovremmo continuare a dire questo fatto che la ricerca va male, perché in realtà in confronto al numero di pubblicazioni per singoli delle altri paesi, dove però si vede come è magari è garantita più a una popolazione accademica più ampia la possibilità di lavorare in condizioni anche più libere, magari che quello che noi ci auspichiamo, quindi nella libertà di poter scegliere, in questo senso libertà di poter scegliere su cosa investire i propri studi, e quindi questo dovrebbe essere un bel successo. E soprattutto quello che ci fa per chiudere brevemente questa analisi, perché anche il rapporto dell'ANVUR è decisamente ampio, sono oltre 500-600 pagine di lavoro, d'altronde hanno lavorato 2 anni, ci mancherebbe altro che non scrivessero tante pagine. Insomma, un dato si vede abbastanza palese, come quello in cui ancora oggi siamo in un paese con estreme differenze geografiche e territoriali. L'abbiamo detto tante volte che c'è un interesse a investire in determinati atenei, in determinati poli accademici. Il rapporto dell'ANVUR, anche molto d'impatto graficamente, tramite alcuni grafici si vede proprio come esiste una forte differenza fra atenei del nord e atenei del centro e del sud Italia, quindi anche del centro assolutamente, con investimenti di personale, investimenti finanziari molto molto concentrati su una precisa area geografica, che fanno sì che comunque vanno a creare una discrepanza a livello anche di lavoro, formazione all'interno del nostro paese, ma che soprattutto, tra l'altro, vedendolo anche da un punto di vista di studente, quindi nel senso, se io sono uno studente, ho voglia di sapere, ovunque vado posso impegnarmi per apprendere il maggior numero di cose possibile, avere uno spirito critico per poter continuare gli studi nel paese, nella città dove vivo. Però questo invece provoca purtroppo un'immigrazione interna, di cui abbiamo parlato tante volte, che è sempre più frequente nel nostro paese, e quindi questo è un dato che all'ANVUR non interessa, perché interessa semplicemente stabilire a chi devono andare i soldi, a chi su chi quale università investire. Ma purtroppo questo è un caso molto, molto da sottolineare, molto frequente nel nostro paese, la continua immigrazione interna di giovani studenti che abbandonano tutto per poter andare a studiare in università dove viene garantito un futuro, diciamo, lavorativo migliore. Insomma, poi l'ultimo dato che potremmo forse analizzare in questa analisi molto breve e superficiale è quello del fatto che l'ANVUR risulta perché sono aumentate le iscrizioni, sono aumentate di nuovo le immatricolazioni, e soprattutto le immatricolazioni femminili sono oltre il 55%, e quindi questo l'ANVUR esulta di questo fatto. Ci rendiamo conto noi, però comunque dobbiamo sottolineare che stiamo parlando di una media di iscritti bassissima, che continua a diminuire da anni e anni. C'è un lievissimo miglioramento di quest'anno, che non può essere, pur non essendo un esperto di statistica, identificabile come un cambiamento di rotta, ma è una percentuale talmente bassa che potrebbe significare tutto, tutto o niente, soprattutto se il riscontro che noi quotidianamente abbiamo è che non è dovuto a un effettivo investimento nel diritto allo studio o un effettivo investimento nella vita dello studente. Semplicemente, infatti, andando a vedere quotidianamente nelle nostre facoltà, nei nostri atenei, la condizione studentesca rimane sempre la stessa, nonostante magari 10.000 studenti in più si sono iscritti negli atenei. Sicuramente ciò non toglie che la condizione universitaria per uno studente è totalmente ad oggi una situazione difficile, una situazione dove è difficile anche andare a scegliere di investire in un percorso del genere. Quindi, prima di andare a fare determinati proclami dicendo c'è un'inversione di tendenza in quest'ultimo periodo, invitiamo l'ANVUR, ma soprattutto invitiamo chi poi considera questi dati forniti da questa associazione a ragionare oltre la semplice statistica, oltre al semplice metodo valutativo che considera l'ANVUR, ma andare a effettivamente andare a riscontrare i problemi, le problematiche di un mondo, quello dell'università oggi, che è totalmente in crisi. Lo ripetiamo da anni, lo dice addirittura l'ANVUR all'introduzione della propria relazione. È un mondo in difficoltà che riscontriamo tutti i giorni, e noi siamo fortemente convinti che la difficoltà non solo sono difficoltà economiche, non sono solo difficoltà nel veder garantito un diritto allo studio, ma la difficoltà di questo sistema universitario sta anche proprio nel continuare a credere che la via giusta sia proprio quella valutazione che va a proporre un ente come quello dell'ANVUR. Girl, you knock me down and leave me laying in the dirt, but nobody walks away from love. Hey, appiccicati in una metropolitana all'ora di punta, il caldo mi fa sudare soltanto nel pronunciarlo. Il mio treno parte a meno un quarto, è sempre in orario, sul tabellone non esce ancora il binario. Il tabaccaio poggia gli spicci del resto sul piano, con tutto che avevo messo la mano. Siamo in anticipo come quando eravamo case di paglia sprovviste per l'uragano. La gente passa, guarda, poi se ne va, scappa. La gente è triste, glielo si legge in faccia. Io sorseggio una Coca-Cola e nervoso riguardo l'ora. Aspettate, mi vengo a fare baldoria. Yes sir, com'è che ne scrivi le storie, boss? Io ne ho una in testa e fa così. Io risposte non ne ho, e restare in contatto col mondo fuori tornerà il tempo e sarà luce, musica nuova. Cambi le facce, le piazze, yeah. Magna, Blue Knox. Ehi, questo treno non ferma più. Il mio bagaglio è sempre più pesante ogni volta che vado giù. E tutto cambia nella mia vita, ma è tutto identico ai miei ricordi d'infanzia. Voi cosa fate? Dov'è che state la sera? Come giocate? Con cosa vi sballate? Io che ai ricordi ho sempre dato un valore che voi non date. Le scene, il casino, l'estate. Ora che è tutto diverso, da pagare le bollette, il tram, i Kellogg's. Stare attento alle offerte, troppo tempo. Se ne va a guardare il sole che dietro i palazzi sta scomparendo. Yeah. Ed io vorrei girare di più, beccarvi più spesso. Scadere, questo è per me stesso. Taster style. Io risposte non ne ho, e restare in contatto col mondo fuori. Yeah, yeah. Tornerà il tempo e sarà dolce musica nuova. Questo è il mio tempo e sarò forte, forte per noi. capito, mo vi racconto una storia. Automatica, automaticamente. Automatica, automaticamente. Automatica, automaticamente. Automatico, automaticamente. Soggetti smarriti, ufficio dispersi, attacchi diretti, cadono i difetti, mezzi di trasporto danneggiati, prezzi triplicati, sindrome di Stendhal, Cuba Cabal, risoluzione istantanea a Montepal, la storia è infinita, come pizzichi di sale, chicchi di apocalisse condiscono la padella del mondo, ingredienti e condimento, la guerra è servita, tavola rotonda, ascoltiamo quello che succede, schiantù in onda, armani e bombe, pistoli cavalli, sto bazooka Valentino, fashion Digos, Robocop, mezzi blindati, pattuglie chic per uomini doc, il sistema non regge, vita rocambolesca per fuggire alla merce, mondo marcato stretto, codici a barre dietro il collo, tatuati sulle sbarre del controllo, cassetta degli attrezzi, culture fatte a pezzi, coltura ad alti prezzi, la guardia si fidanza, matrimoni nella banda, spartite la torta, impennate di Vespa con la gente morta, corruzioni di teste con la miccia corta automaticamente. 11.39, continuiamo con la puntata di Parole Ribelli. Ci spostiamo adesso in Francia per parlare della nuova giornata di mobilitazione che c'è stata ieri, martedì 28 giugno, contro la loi travail. Una Francia attraversata da diverse manifestazioni che si sono mosse in tutto quanto il paese, promosse da alcuni sindacati francesi come Solidarie e CGT e collettivi e realtà politiche e sociali. Diversi scioperi appunto in tutta la Francia, a Lille ad esempio sono state barricate diverse strade e la polizia ha effettuato almeno 11 arresti tra sindacalisti e lavoratori durante appunto lo sgombero del picchetto. A Parigi invece un corteo attraversato da diverse persone, blindato da un ingente numero di forze dell'ordine. Si parla di almeno 2.500 agenti schierati lungo tutto il tragitto con controlli sistematici sulle vie d'accesso. Parliamo con, siamo in diretta in collegamento da Parigi con Adele. Ciao Adele. Ciao. Una ragazza che appunto ieri invece faceva parte di quella parte di corteo a cui non è stato concesso di raggiungere la piazza. Ti chiederemmo di farci un breve racconto di quella che è stata la giornata di ieri. Dunque, appunto sta proseguendo questa mobilitazione che va avanti da ormai 4 mesi. E ieri era stata chiamata un'altra giornata di mobilitazione con una manifestazione intersindacale che è iniziata appunto, cioè ci siamo in una Parigi completamente blindata con tutte le forze di polizia schierate ad ogni angolo della zona che sarebbe stata toccata dalla manifestazione, con quasi un'intera linea di metro chiusa che era quella del percorso della manifestazione. Perquisizioni sistematiche a tutti i gruppetti di persone che venivano visti con uno zaino, quindi proprio sulla base di pseudo riconoscimenti facciali, no? E secondo gli organizzatori ieri la manifestazione ha mobilitato 50.000 persone e si è svolta però in un'apparente calma, perché appunto questo dispiegamento poliziesco immenso ha fatto sì di dover per forza tenere a ribasso una mobilitazione che invece esprime un'enorme rabbia, un'enorme indignazione anche per come è gestita dal punto di vista repressivo. Ieri la giornata è iniziata con 2 arresti preventivi di 2 compagni che sono stati prelevati da casa loro e sono tutti in garda a vue, in stato di fermo al commissariato, e infatti per oggi è lanciato un presidio per chiedere la loro liberazione. E inoltre la prefettura aveva chiesto ai servizi d'ordine dei sindacati di collaborare con le forze di polizia, un documento che c'è da dire le forze sindacali, non tutte, ma le principali hanno firmato. E noi ad esempio eravamo ad un'assemblea di preparazione della mobilitazione che si teneva ieri mattina, e come siamo usciti decidendo di arrivare al corteo tutti insieme, rifiutando i controlli e le perquisizioni degli zaini, siamo stati circondati dalla polizia, che ci ha di fatto sequestrati per 5 ore, impedendoci di esercitare il nostro diritto di andare alla manifestazione. Anche quando poi verso le 6 siamo stati liberati, erano accorsi tantissimi altri manifestanti dal corteo in sostegno in piazza della Repubblica, e sono stati caricati. Anche là abbiamo visto un dispiegamento di polizia in divisa in borghese immenso, armi alla mano, con granate, e i manifestanti sono stati dispersi a colpi di manganello. Oggi appunto le prossime azioni sono una presidio di solidarietà al commissariato per chiedere la liberazione di questi compagni che si trovano tuttora in stato di fermo, e la prossima settimana delle azioni di sostegno alle case de greve per insomma finanziare i lavoratori che in tutto questo periodo hanno perso i loro stipendi per stare in sciopero. E la prossima manifestazione si terrà il 5 luglio. In tutto questo, ieri la Travail veniva discussa e votata in Senato, e da questa discussione sono state apportate alcune modifiche al testo della riforma, in particolare dagli schieramenti di destra, che sono andate ovviamente nella direzione di un inasprimento delle misure previste. Per cui il risultato è anche che Hollande ne esce vincente, perché in ogni caso la riforma proposta dal governo socialista era, diciamo, più morbida rispetto a quella proposta, alle modifiche proposte dai partiti di destra. Legge adesso ritornerà alla Camera, dove non sappiamo ancora se verrà effettivamente rivotata oppure se sarà di nuovo ricorso a quella misura di approvazione senza voto, il 49-3. E giovedì ci sarà un incontro fra il sindacato della CGT, il presidente del sindacato CGT, Martinez, e Force Ouvrière, e i rappresentanti del governo. E si vocifera che ci sia un possibile accordo, delle possibili trattative su due articoli in particolare della riforma, che sono l'articolo 2, che è quello che ha fatto più scalpore perché prevede l'inversione della gerarchia di norme fra accordi interni alle imprese e accordi nazionali di categoria, e l'articolo 13 che invece riguarda le organizzazioni sindacali. Questo è un po' lo stato delle cose. Cioè, appunto, la cosa che salta più agli occhi è il livello di gestione poliziesca che ha preso questi mesi di mobilitazione. Qua a Parigi, ad esempio, è evidente che ormai è il prefetto a governare la città in tutto e per tutto. Però appunto ci sono altri appuntamenti che sono lanciati e la mobilitazione continuerà. Perfetto Adele, noi ti ringraziamo per il contributo che ci hai dato, sia per appunto il racconto della mobilitazione che c'è stata ieri, sia per gli appuntamenti dei prossimi giorni. Sicuramente torneremo a parlare delle mobilitazioni che attraverseranno Parigi e il resto della Francia. Ti ringraziamo e ti salutiamo dalla redazione di Parole Ribelli. Grazie a voi, ciao. Quello che facciamo, quello che sogniamo, quello che sbagliamo, non è mai invano. Poi ci ritroviamo, un'estate al mare, voglia di lottare. Quello che facciamo, quello che sogniamo, quello che sbagliamo, non è mai invano. Poi ci ritroviamo, un'estate al mare, voglia di lottare. L'aria farcita di promesse, ricoperte di granelli di proposte, spiccano e affondano, mozzarelle filanti, bufali da pascolo, mangiano in contanti. È finito il tempo della vacca grassa, bocche allappate di topi morti fanno cassa. Quando una crisi sviluppa la creatività, quello che la gente butta, ruba gli addobbi della vanità. Fantasmi negli oggetti sparsi qua e là, mercatino di un tempo lontano. La scelta è un'illusione, tieni d'occhio l'occasione. Prendi due, paghi tre, questa è la vostra nazione. Alleggerito dalla merda che mi porto dentro, una bella cagata e comincia la giornata. Chi coi pezzi sotto il naso, chi la puzza sotto il naso, chi annaffia le piantine con amore dentro al vaso. Giorni continui a corrente alternata, tra le gioie acquisite la malinconia innata. L'Europa caccia e spende, ma il cinese c'ha sempre quello che ti serve. Sfamate le... Levate le tende, ogni giorno lotta continua. Perché non servono le larve, se saliscono le farfalle, se ti giri intorno e ti cascano le palle. Oh, oh, oh. Quello che facciamo, quello che sogniamo, quello che sbagliamo, non è mai in vano. Poi ci riproviamo, un'estate al mare, voglia di lottare. Quello che facciamo, quello che sogniamo, quello che sbagliamo, non è mai in vano. Poi ci ritroviamo, un'estate al mare, voglia di lottare. Attenzione che ci uccide, e non mi dire di sorridere, chiedimi di lottare. Perché lottare è vivere, non credo alle sirene del successo. Io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. E se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Dipingo con i testi perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tonache nere e folletti bianche. Non mi fotte se c'è la pistola, polvere nella stagnola. Gli MC che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering. Spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. E siamo in tanti e non ancora disillusi. Io guardo avanti nel cielo coi diamanti come Lucy. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry. Canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding. Sangue sul mio rhymebook conta un milione di pagine. E non cambia una parola perché me l'ha detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto. Le mie rime non le pagano, quindi non hanno prezzo. Un rapper sa che è meglio un lavoro precario che dare il culo per un contratto e i passaggi in radio. E un rapper sa che andrà sempre a finire male se l'industria della musica è serva del capitale. Senza nazione né bandiera, se di questa Italia. Siamo guerrieri nella notte, non c'è Coney Island. Resta resistere con ogni mezzo necessario. Musica, ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. La musica è un filo teso, è il filo del microfono. È fuoco, gioco, sfogo, pogo, il logos del filosofo. È ciò che la classifica massifica. Quello che copre le bugie del Vaticano coi Magnificat. La musica mi ha chiesto 100 e dato 1000 in cambio. Perché sta muto chi è venduto, non solo chi è stanco. 1000 canzoni e stacchetti sui palinsesti. E 7 note come fiori sulle tombe di Sacco e Vanzetti. La vera musica va oltre le parole, è come l'alta tensione, a volte chi la tocca muore, va oltre lo strumento, il tempo, il sample è terribilmente serio, chi la suona sorridendo è un supremo amore come John Coltrane, non si fida dei Remida né dei beat da hit parade, io resto fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado, per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado, per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Wake up! What an idiot. Yeah, I don't even know. Oh my god. Heard it there. Da Parigi ci spostiamo adesso a Roma, dove ieri mattina sono state notificate una decina di obblighi di firma fra compagni e compagne attivi nel quartiere di Roma Est. I fatti contestati risalgono al 27 febbraio di quest'anno, quando un banchetto elettorale di Noi con Salvini veniva chiuso da un territorio come quello di Torpignattare Prenestino, di forte composizione migrante e in cui gli abitanti, consapevoli dei reali problemi di chi vive e attraversa quotidianamente il quartiere, non sono sono disposti appunto a lasciare spazio a chi tenta di promuovere e promulgare messaggi di odio razziale alimentando la guerra tra poveri. Ancora misure quindi cautelari e restrittive contro antifascisti a Roma come in tante altre città d'Italia. Siamo in diretta con Lorenzo da Roma. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti e tutte. A cui appunto chiederemmo di fare di darci un commento circa queste misure che hanno colpito una decina di voi compagni e compagne di Roma e magari di raccontarci quella che era stata la giornata del 27 febbraio. Sì. Guarda, sul contesto un po' che già descrivevi tu, cioè, in realtà c'è poco da aggiungere, cioè, il 27 febbraio era una delle giornate che hanno caratterizzato un po' tutto lo svolgersi della campagna elettorale su Roma, nello specifico poi su Roma Est, comunque sia come consuetudine è stato l'escamotage per molte forze reazionarie, populiste e xenofobe di emergere un po' dentro territori popolari o diciamo comunque sia marginali rispetto a tutti i flussi della città, e quindi è stato un periodo anche di forti frizioni e di confronti quotidiani poi in tutti i quartieri di Roma. Quindi diciamo quella giornata là non si è caratterizzata appunto come già raccontavi prima per per un'attivazione anche di un territorio che ha ribadito il suo no rispetto alla crescita e al presentarsi di questi discorsi, di questo inneggiare la guerra tra poveri a soluzioni anche semplici e securitarie. Detto questo, appunto, poi la giornata di ieri l'hai anche un po' riassunta bene tu. Ci sono stati diciamo un'operazione di polizia anche abbastanza vasta, hanno colpito 10 abitazioni, cui appunto sono state effettuate perquisizioni e sequestri di materiale sia cartaceo che informatico, più il sequestro di tutti i dispositivi cellulari delle persone coinvolte appunto nel procedimento, quindi anche e l'emanazione di questi obblighi di firma 2 volte al giorno per appunto per dei reati che vanno dal travisamento alle lesioni, al danneggiamento e all'impedimento ai cittadini di esprimere la propria opinione politica. Quindi diciamo un po' questo è il quadro generale. In realtà per considerazioni politiche prossime anche attivazioni e da farsi, ci stiamo organizzando anche come compagni di Roma Est, quindi ancora non si può dare indicazioni su attivazioni future o su ciò che si deciderà, o ancora un work in progress. Ok, bene, allora rimarremo sicuramente collegati in contatto per seguire questa vicenda, se ci saranno momenti di mobilitazione e di risposta all'interno del quartiere e della città per far sapere che cosa è successo e per dare appunto una risposta sì, da parte vostra. Senz'altro. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao, buona giornata. Senza padroni. What it is, what it is, Johnny Dog Malatesta. Drop. This is for the people, this is for the people, this is for the people, this is for the people, this is for the people. And this is for the people who were never heard. It's a voice for the voiceless, a toast for the toastless, a smoke for the smokeless, for those who run the train but are coachless, for those with the farming but are foodless. We this, believe this, eh? This is is for the people who have never heard. Cause we have so much more to say and no one gets to hear. Tiptoeing through this life and we driven by fear. This is for the people who have never heard. And this is for those with chains on the feet. Sick and scared to move, you always scared of defeat. And this is for those who go nonstop, nurturing the children harassed by the cop. It's like fuck the many and serve the few. In this world, vertical madness, what are we to do? Is there a time served for the people who never heard? Remember the coming years like they're already gone. When desperation conquers reason, it's a treason to behold. On a self without knowing, you're feeling a mold. Contemplating survival and it's something so old. This is for the people who were never heard. Cause where everything will never be. Cipher from our true potential, we could be so much more. But the sphere culture reigns on us and it ain't accidental. We scared of each other, steady keeping us from our basic essentials. But if I am you and you are me and we share knowledge, come and we pulling strength from one another, then we wouldn't need these managers or masters. These fuckers sucking on us like cancer. We had never heard cause they never asked us. They wouldn't like the answer. It's a hush hush, been silence for years. We ain't living through our fears, so fuck your careers. And this is for the people who have never heard. Cause we have so much more to say and no one gets to hear. Tiptoeing through this life and we driven by fear. This is for the people who have never heard. And it's making me feel funny like a bad remix. But it's something we can fix and these tricks are for kids. And this is my bid for another society. Living horizontally, what it be, wanna be. Constantly thinking of another way to say we could do better. We all have ideas on how shit could work better together. But it's like a lost love letter. So much good intention, but it's never delivered. A misconnection, options never considered. I'm saying it now, cause of broken people we can't be so. This is for the people who have never heard say. This is for the people, this is for the people. This is for the people, this is for the people. This is for the people, hey, hey. E come no, e cazzo, trovo in doma la testa da San Francisco. Broken Speakers e il crew, Roma 2011. The Orthopedic Pizza. Ah, e questo è un mondo maledetto remix. Va così. Ah. Ho tante cose da dirti oltre quelle che ho detto. E ce l'ho tutte qua dentro, mi battono in petto. In questo mondo maledetto sto calmo e aspetto il nostro momento, quello perfetto. Ho tante cose da dirti oltre quelle che ho detto. E ce l'ho tutte qua dentro, mi battono in petto. In questo mondo maledetto sto calmo e aspetto il nostro momento, quello perfetto. Sto mondo è maledetto, rimette in bocca alle persone troppo spesso le parole che hanno detto. Non dà risposte che gli ho chiesto. Ascolta l'arroganza di chi strilla, non lo legge questo testo. Cambierà presto, me lo ripeto mentre cresco. La stessa convinzione in ogni gesto. Ma forse ormai non basta questo. Non basta metterci se stesso. Sto mondo ogni cosa dà un prezzo. Capisca al volo quando posso darti il cuore. Una bilancia nel cervello, ci peso le parole. Capisci, capisci perché scrivo le mie storie. Se sto mondo mi distrugge lascia a te le mie memorie. E ti lascio il sangue e l'amore. La voglia di sconfiggere il grigio e dargli un tocco di colore. Ti lascio tutto anche le prove. Che sto mondo maledetto è un paradiso se lo vuole. Ho tante cose da dirti oltre quelle che ho detto. E ce l'ho tutte qua dentro, mi battono in petto. In questo mondo maledetto sto calmo e aspetto il nostro momento, quello perfetto. Ho tante cose da dirti oltre quelle che ho detto. E ce l'ho tutte qua dentro, mi battono in petto. In questo mondo maledetto sto calmo e aspetto il nostro momento, quello perfetto. Sto mondo è maledetto, più si avvicina all'uscita dal tunnel e più sto tunnel si fa stretto. Lui sussurra frasi nell'orecchio e mi parla di rispetto, ma gioca un gioco vecchio e scorretto. Se sbaglio pago pegno, ma c'ho un disegno nella testa e insisto di nuovo, testa di legno. Io prendo la mira e vado a segno. Quello che c'ho in mano adesso è tutto frutto del mio impegno. Capisci quando parlo, capisci di che parlo. Capisci che quello che faccio mi fa stare calmo. La differenza tra il dire e di farlo, prendere fiato, riuscire a sostenere qualunque sguardo. E guardo il traguardo ma rimango fermo e solo. Mondo bastardo qua mi tiene fermo al suolo. Ce la farò un giorno a prendere il volo e mi porto appresso tutti su come in un mondo nuovo. Ho tante cose da dirti oltre quelle che ho detto. E ce l'ho tutte qua dentro, mi battono in petto. In questo mondo maledetto sto calmo e aspetto il nostro momento, quello perfetto. Ho tante cose da dirti oltre quelle che ho detto. E ce l'ho tutte qua dentro, mi battono in petto. In questo mondo maledetto sto calmo e aspetto il nostro momento, quello perfetto. my people, hello to the day. I watch the world on wheels, hit the yellow and gray. The ones don't work, all the ones don't eat. And once again, I'm from that city where the sun don't sleep. It's time to get live because the terms is breached. Ride the wave like the world is a beach. Learn more, I teach. I was raised by NWA and State CA. All day, same story, different briefcase. I'm nonchalant to others peddling weight. I got a purpose to serving up and settle my state. Been through it, all of it great. Put the ruler to the movement, all of it straight. Big fish, even calling them bait. One love, one dish, see them all on my plate. I take the lady on a vacate, she call it a date. Now she calling in sick, now she calling in late. The heart of the work, well, the moment's a day. Easy to come, but I still don't stay. Time to go wild, and I pray somebody show me the way. Somebody show me the way. I've been through some pitfalls and I've been down. Waited through close calls and lost some ground. It's a hell of a price I pay. Somebody show me the way. The moon tag the sun in. Love to be alive. Feet hit the ground running. Butterflies in my stomach. Like I'm anxious trying to get it. Trying to learn a lot from it. On a planet in regression. In the loft at the summit. Air is much clearer. Catch me on the high road. Some fight to live. Others settle for survival. It's your world. You could write the line you live your life on. It's heavy but you're strong. Just hold on until that light dawns. It's starting now. Pardon me, we're partying. Escalating. Redefining the state of the art again. Celebrating. Elevators open up to secret floors. Different rules and secret laws. From the roof you'll see the stars. Only fear boredom in a world of raw materials. Excited by potential, inspired by adventure. Calculated circles, the circumference and the radius. To only cast a float without a float through the parade is us. The heart of the work, well, the moment of the day. Easy they come, but the sun don't stay. Time to go wild, hoping I pray. Somebody show me the way, somebody show me the way. I've been through some pitfalls and I've been down. .09 sulle libere frequenze di Radio Blackout, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli, ci avviamo verso la fine di questa puntata, allora siccome è l'ultima prima di un po' di pausa estiva non possiamo che lasciarvi con qualche appuntamento da assegnare in agenda in vista dei mesi estivi. Abbiamo a questi microfoni Roberta che innanzitutto salutiamo, ciao Roberta. Ciao. Allora, con te volevamo parlare di questo festival Alta Felicità che ci sarà dal 22 al 24 luglio a Venaus, all'interno insomma dell'estate di Lotta Valsusina, che insomma da anni è un appuntamento ormai fisso. Ti chiederei innanzitutto di raccontarci un po' come è nata l'idea di questo festival, visto che insomma non sarà solo un appuntamento musicale, ma c'è anche un po' un'idea di vivere la valle in modo diverso dietro a questo appuntamento. Allora sì, l'idea è singolare, nel senso, questa è una chicca che vi racconto, nel senso che l'idea è nata a Roma un paio di anni fa tramite una chiacchierata tra Elio Germano e Daniele Gaglianone. È un'idea che poi si è portata avanti in questi anni, sempre solo così come parole, no? Dire ma si potrebbe fare un festival, costruire un'iniziativa che in qualche modo ci permetta di mostrare quella che vorrebbe essere il nostro modo di poter vivere la valle. Allora da lì, piano piano, lentamente, quest'anno si è deciso di buttarsi in questa nuova opera. Nel senso che sì, il Festival Alta Felicità proprio vuole in qualche modo rispondere in una maniera completamente differente a quella che è, diciamo, l'alta velocità che viene portata in Val di Susa, e lo fa attraverso appunto queste tre giornate di festival, chiudendo il traffico direttamente, chiudendo la provinciale che porta a Venaus, quindi da Susa a Venaus, chiudendo un tratto di quella provinciale e provando a restituire al territorio una vita a bassa velocità. All'interno del festival sono previste tantissime attività differenti, ovviamente dai grandi gruppi musicali, dai grandi concerti, ma poi anche a tutte le varie gite, le passeggiate, le gite in bici per i vari sentieri e percorsi che la valle regala, oltre invece a una parte, diciamo, che noi abbiamo chiamato mercato consapevole. un modo diverso di poter avvicinarsi ai prodotti per fare acquisti e di conseguenza prodotti tipici, prodotti locali. Ci sono una quarantina di produttori della valle che verranno ad esporre i propri banchetti al festival, e tutto questo è fatto chiaramente in pieno stile Movimento Notav, quindi in completa autoproduzione, auto-organizzazione. Il festival è interamente gratis, verranno messe a disposizione due grandi aree per poter campeggiare in maniera libera, e ci saranno presenti tutti i vari, le varie cucine del movimento, che in questi 25 anni hanno appunto permesso al movimento di potersi sfamare. E tutto questo viene fatto in collaborazione anche grazie a tantissimi artisti che si sono dedicati, affacciati al festival e hanno appoggiato la causa, e felici vengono appunto, verranno in Val di Susa il 22, il 23, il 24 di luglio. Adesso, se volete, vi do una piccola anticipazione di quelli che sono gli artisti che appunto abbiamo pubblicato ieri sul sito internet. Nei prossimi giorni però ci saranno altre novità, ecco. Per adesso quello che possiamo dirvi è che saranno presenti con noi artisti del calibro di Nino Frassica, Rocco Hunt, 99 Posse, Subsonica, Chaos, Green, Lucci, NC, Willy Peyote e tanti altri, Krakatoa, i Blue Beaters, le Bestie Rare, Ludolfin, Mao, cioè potremmo andare avanti, Muro del Canto, gli Statuto, Mamma Maria, questi artisti che arrivano da tutta Italia. E tutti gli artisti saranno ovviamente in una forma di partecipazione, un contributo, di conseguenza tutte le sere ci saranno tanti artisti diversi che si esibiranno sul palco dell'Alta Felicità, e tutto sarà appunto, come dicevo prima, a partecipazione gratuita, quindi gli artisti non percepiranno un euro per questa partecipazione, ma perché lo fanno proprio per poter dare il loro contributo al movimento. In più tutti i concerti, come dicevo, sono completamente gratuiti, quindi per una volta nella vita, al posto di andare a spendere 80 euro per due giornate di concerto, ecco, si può venire in valle, montare la tenda e stare lì e vivere gratuitamente delle bellezze del posto che il festival può offrire. Bene, ti ringrazio. Se hai voglia magari di lasciare anche i riferimenti, insomma, per seguire tutti gli aggiornamenti del festival, visto che anche il programma mi sembra di capire ancora in aggiornamento, so che ieri è stato messo online anche il sito, per cui insomma... Esatto, allora ci potete seguire su Facebook alla pagina Festival Alta Felicità, mentre invece il sito internet è un pochino più complicato, perché con i mezzi che abbiamo ci siamo appoggiati su una piattaforma online, per cui prendete carta e penna, anche questo non è molto complicato, però ve lo dico così com'è: altafelicita.wix.com/altafelicita, molto molto facile. E lì sopra trovate tutte le informazioni anche riguardo all'ecosostenibilità del festival, quindi è proprio l'idea di voler vivere la valle per quei tre giorni lì in una maniera completamente diversa da come invece ci viene puntualmente proposta dal governo e quindi anche poi dagli invasori, quelle maledette forze dell'ordine. Invece noi proviamo in quei tre giorni lì a dimostrare che la valle vuole vivere in tutt'altra maniera. Bene, Roberta, noi non possiamo che rilanciare l'invito a esserci, insomma, che a maggior ragione alla luce dell'ultima operazione della scorsa settimana sarà un'occasione di più anche per sostenere il movimento e tutti i compagni e le compagne che si trovano colpiti o comunque rincorsi da misure cautelari, quindi insomma, sicuramente non possiamo che rilanciare il tuo invito e ci vediamo quindi ad Alta Felicità. Perfetto. Grazie, buona giornata. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Adesso prenditi il tuo tempo e i tuoi due minuti d'odio, loditeli tutti e poi strozzati perché non sei sul podio. Brucia le pagine senza il tuo nome, punta il dito sul nemico e sfoga la tua frustrazione. Scegli un colpevole, la giostra è appena cominciata, la caccia aperta, questa è una voce registrata. Gioco aspetto della nuova propaganda, scorda ogni domanda, un'unica risposta, qualunque essa sia. Nessun bisogno di pensare con ortodossia, solo un furore cieco, un velo nero sopra il cuore, un nuovo credo da adorare, in nome del sacro terrore. Lampi nel cielo, sei sul canale zero, e mo la bestia ride dallo schermo mentre recita il Vangelo. Dacci oggi il nostro panico quotidiano e piano, liberaci da tutto ciò che è umano. Questo è canale zero, edizione speciale, qua è tutto vero però niente è reale. Canale zero, la verità di attuale ed è tutto normale, ed è tutto normale. Canale Zero, edizione speciale. Qua è tutto vero, però niente è reale, ed è Canale Zero, la verità virtuale, ed è tutto normale, ed è tutto normale. Lo specchio mostra gli episodi mentre credi sottovoce. O sei quello che pianta e che odio, o sei quello sulla croce. La via più veloce se ascolti il lato oscuro. La bestia feroce nei volti del tuo futuro. Sono occhi nel buio che non trovano aperture. Sono occhi nel buio e sono come due fessure. Sono le sue paure, sono schegge affilate, nocche dure, sotto armature spezzate. Non ve ne andate, restate per il finale. Perché quando è finita, comunque è finita male. È la vita che è uguale, è la vita che è uguale. Non state cambiando vita, state cambiando canale. Al mio segnale scatenate l'inferno. Cazzate se pensate sia soltanto uno schermo. C'è un occhio al suo interno, vi sta guardando l'anima. Il sangue sul quaderno adesso riempie un'altra pagina. E dopo immagina, già non sei capace di versare una lacrima e nemmeno mi dispiace. Lo so, non è efficace, purtroppo è tutto vero. Ti metto il cuore in pace, questo è Canale Zero. Canale Zero, edizione speciale. Qua è tutto vero, però niente è reale. Canale Zero, la verità virtuale, ed è tutto normale, ed è tutto normale. Canale Zero, edizione speciale. Qua è tutto vero, però niente è reale, ed è Canale Zero, la verità virtuale, ed è tutto normale, ed è tutto normale. Spuco freddo, freddo. Non passeranno, non passeranno. For the enemiga se amplía. Todos en tu contra si tú luchas por la gracia, porque hoy el fascismo se llama democracia. Capitalismo tiene varias herramientas, democracia o dictadura, usa la que te convenga. Militares, policías, diputados, recuerda Adolf Hitler en las urnas fue votado. En tiempos convulsos el lenguaje populista gana afiliación. Hablan de marginación, culpan a la inmigración. Unos con traje tienen escaño en las cortes, otros en la calle usados de fuerzas de choque. Y una muerte más en manos de los fascistas, ni en la calle, ni en los CIE, ni en las comisarías. Racismo y fascismo callejero o institucional, volvemos a gritar, no pasarán. For the life, every day, and the people we got. No pasarán, no, no pasarán. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут, они не пройдут. For the life, every day, and the people we got. No пасаран, no пасаран. For the hope that we have and the freedom we love. Δεν θα περάσουν, δεν θα περάσουν. Φωτίζει και αφορετική αντίληψη και στάση. Μιλώ για επανάσταση, αλλά μιλώ για δράση. Και όλα αυτά που κάνανε, κανείς δεν θα ξεχάσει. Γι' αυτό δεν θα περάσουν, και δεν θα τους περάσει. Σε τάξη, σε ένα κόσμο με μαυαμένο. Δεν θέλουν, δεν μπαίνω, γι' αυτό επιλέγω απ' έξω να μένω. Σε κάθε σύστημα που καταδικάζει, κάθε τι ξένο, επεμβαίνω. Προκά να σπάσει το κατεστημένο. Και δεν πιστεύω ότι σε σύνορα ούτε έθνη. Ποιος είσαι εσύ που νομίζεις ότι είσαι ανώτερος? Άμα σου είπαν ότι σε έχουν επιλέξει, μάθε πως είσαι ένα πιόνι και τίποτα περισσότερο. Και ο μόνος τρόπος για να αντέχει η εξουσία είναι να φέρει ζωές που δεν μπορεί να τις τρομάξει. Μάθε πως δεν πεθαίνει ποτέ της η ελευθερία. Μάθε αρχεύει και τον κόσμο μια μέρα θα τον αλλάξει. For the life, every day, and the people we got. Non passeranno, non passeranno. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут, они не пройдут. For the life, every day, and the people we got. Non passeran, non passeran. For the hope that we have and the freedom we love. Δεν θα περάσουν, δεν θα περάσουν. Shut up, everybody shut up. I think you've had too much to speak. Give me the keys, plug the leak, or go take a little step off something steep. I might be a fuck up, but I wanna do splendid things. I mean, I want somebody to remember me and maybe drive me around in a limousine. I'm just joking, I'd rather drive myself, rather fly myself. Most time, rather be all by myself. A party of one, and I keep going for as long as the arteries pump. Don't start no junk. I'm not a thug, but I'm hardly a punk. And if it ain't the hard part of the month, throw your hands in the sky, sing the harmony once. Shut your pretty mouth, I got a window in my car, I can see it all. I don't trust a motherfucker one bit though, let it go. Shut your pretty mouth, I got a window in my house, I can see it all. I don't trust a motherfucker one bit though. Shut up, everybody shut up. I brought my own knife and fork. Stood up to address the court and said the kid's so hungry he'll eat the stork. I might be a fuck up, but I'm in the upper percentile. I try to put a smile on my face while the rest act so cold-blooded like a reptile. Gotta look over both the shoulders, don't even know your potential cobras. I'm trying to find a poser to design a poster to mobilize voters. This is not a top secret, but they already know what you're not thinking. Either you can submit or you can just stop speaking and find yourself beside another lost weekend. Shut your pretty mouth, I got a window in my car, I can see it all. I don't trust a motherfucker one bit though, let it go. Shut your pretty mouth, I got a window in my house, I can see it all. I don't trust a motherfucker one bit though. Shut up, everybody shut up. All of y'all talk too goddamn much. Slither back under that rock you're from. Got a hiss on the tongue that you just can't trust. I might be a fuck up, and maybe you are too, but I ain't no judge. Run through dirt just to kick up dust. Put a little paint on the tip of the brush. Go ahead, breathe with no regrets. Life's too brief to be so upset. Gotta take the loss and plead the fifth. Sometimes the world'll make you eat that shit. Gonna jump like a kangaroo, break out of the zoo. Let the universe know that you made it through. Stay true to your name and crew, but watch what you say and who you say it to. Shut your pretty mouth, I got a window in my car, I can see it all. I don't trust a motherfucker one bit though, let it go. Shut your pretty mouth, I got a window in my house, I can see it all. I don't trust a motherfucker one bit though. Motherfucker won't be. capito, ecco. E 31 sulle libere frequenze di Radio Blackout, ci prepariamo a salutarvi non prima di avervi ricordato come sempre gli appuntamenti di questi giorni. Allora partiamo da oggi, mercoledì 29 giugno, al Mezcal Squat cena Bella Vita, a partire dalle ore 19, fornelli calienti, porta quello che più ti piace, appuntamento al Parco della Certosa di Collegno. Mentre per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 30 giugno, presidio informativo sulla repressione delle lotte sociali antimilitariste e antirazziste, NOTAV da Torino alla Valsusa, appuntamento alle ore 17 in via Po, mentre in quel di via Cecchi torna l'appuntamento settimanale con la Piola di Radio Blackout. Domani a scaldare il cortile di via Cecchi ci sarà una serata indimenticabile, nordico, combatti il caldo con l'irresistibile sonorità di Oslo. Dalle ore 19 panini e ghiaccio, alle ore 22 concerto. Venerdì dalle ore 19.30 la palestra popolare Antifa Box presenta nel giardino del centro sociale a Scattasuna il panino che vorrei. 7 panini super a vabbè, riga, la nostra DJ silenziosa sta evidentemente disturbando la nostra puntata, perdonateci, siamo all'ultima puntata prima di una pausa estiva, il caldo comincia a farsi sentire. Dicevamo, venerdì a partire dalle 19.30 la palestra popolare Antifa Box presenta nel giardino del centro sociale a Scattasuna il panino che vorrei, 7 panini super a prezzo popolare, come sempre edizione limitata, accompagnati da una super jam session jazz blues con il Mötley Quintet. LAPD, you're under arrest. What a bitch. E chiudiamo con questo sabato 2 luglio, Torino Hardcore City Antifa Fest, dalle ore 15 fino a notte fonda, bar, cucina e banchetti. Dalle ore 15 ci sarà un incontro con testimonianze dirette su trasformazioni sociali e lotte a Mirafiori dal 3 luglio del 69 a oggi, torneo di calcio a 8, proiezione spazio bimbe e area campeggio. In apertura anonima coristica, anti-anarchici, a seguire dal vivo un sacco di gruppi. Senti lo spot perché insomma sono evidentemente troppi, non ci stavano tutti sull'agenda, comunque rimandiamo anche all'evento che sta girando su Facebook. A seguire Sound System tutta la notte, l'appuntamento al Parco Colonnetti di Via Artom a Mirafiori, Torino. LAPD, you're under arrest. What a bitch. Tavolini all'aperto, il suono quasi distorto del mega mix che da dentro la radio grida cantando, e sembra d'essere al mare che neanche più le zanzare sembrano farsi sentire, ci avranno altro da fare con tutte queste gambe che si ripropongono dopo quasi un anno che si nascondevano sotto strati per proteggersi dal freddo. Questo senso di festa che vola e che va sopra tutta la città, nella lunga estate caldissima. Questo senso di vita che scende e che va dentro fino all'anima, nella lunga estate caldissima. Esaurite, tutte le sedie occupate, le chiacchiere quasi urlate, l'odore intenso d'estate, di voi chi non ha ordinato, il freddo dimenticato, tutto il piazzale riempito di bici, scooter e moto, che questa sera finalmente ricompaiono, dal letargo dell'inverno si risvegliano, riprendendosi l'asfalto, l'aria e il vento. Senso di festa che vola e che va sopra tutta la città, nella lunga estate calda. Allora, 12:37, come avrete capito, insomma, da questo cambio di sonorità che è virato verso il trash, Parole Ribelli vi saluta per la pausa estiva. Torneremo a risentirci tra qualche settimana. L'invito, come sempre, a rimanere comunque sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout, che vi terranno comunque compagnia per tutta l'estate. Quindi un saluto da Francesca, da Anna e da Giulia. E allora, per quest'ultima puntata, anche DJ Silenzio si è palesata ai microfoni di Radio Blackout. Un oggi saluto in versione di disturbatrice. Un saluto a tutti e a tutte.